on retreats like this, there are always beginners and false beginners. In ritiri come questo ci sono sempre dei principianti e dei falsi principianti. By false beginners I mean people who meditate then forget about it and then come back. E per falsi principianti intendo persone che meditano, poi se ne dimenticano, poi ritornano. So these talks always have to address beginners. E quindi questi discorsi devono sempre essere comunque rivolti a dei principianti. Now there are those of you, excuse me, who've heard these talks, and you may consider it unnecessary to listen to them. Alcuni di voi hanno già sentito questi discorsi e quindi siete liberi di non ascoltarli. And this is true. Sometimes it is unnecessary. A volte è vero, a volte non è necessario sentirli. My own teacher always used to give this talk on the Four Noble Truths. Il mio insegnante era solito dare, offrire sempre questo discorso sulle quattro nobili verità. So at first I was very interested. All'inizio ero molto interessato. And then I began to learn it off by heart. E poi ho cominciato a impararlo a memoria. And then I could strangle him the next time I heard it. E poi la volta successiva quando sentivo avrei potuto strangolarlo. So it's a case of if you feel your time would be better spent meditating, that's fine by me. Quindi se voi sentite che il vostro tempo sarebbe speso meglio a meditare, per me va bene. So we have to be clear about our intention, you know, as to why we come on a retreat like this. Quindi deve essere molto chiaro per noi qual è l'intenzione che abbiamo nel venire ad un ritiro come questo. So obviously many of us begin by just wanting to make our lives more happy. Molti di noi cominciano semplicemente perché vogliono rendere più felice la nostra vita. We might have ended up in you know, unfortunate circumstances. Magari siamo finiti in circostanze non molto fortunate. The person who runs the garage, you know, mending cars, who lives near me. Per esempio la persona, il meccanico che abita vicino a casa mia. He ended up in some sort of debt. È finito in un giro di debiti. And this brought about great anxiety. Questo gli ha procurato una grande ansia. And eventually asthma, you see. E poi gli ha creato anche uno stato di asma, condizione di asma. So maybe if he had been introduced to some way of dealing with that, you know, he might not have got asthma, you see. Forse se qualcuno gli avesse insegnato come affrontare questo problema, forse non gli sarebbe venuta l'asma. And there's also the problems of relationship, of illness, sickness. Poi ci sono problemi legati alle relazioni o alla malattia. So often people come to the meditation with some form of suffering. Quindi spesso le persone si avvicinano alla meditazione perché hanno una certa una qualche forma di sofferenza. And it's quite reasonable to think that you know, the meditation is going to help. Ed è ragionevole pensare che la meditazione potrebbe aiutare. But if that is your main aim, then you'll miss the more profound aim of our practice. Ma se questo è il vostro scopo principale, allora vi perderete invece lo scopo più profondo della nostra pratica. We would still be dealing with the symptoms of the deeper disease. Perché continueremo a cercare di affrontare i sintomi di una malattia ben più profonda. So that doesn't mean to say that we shouldn't treat the symptoms. E questo non vuol dire che non dobbiamo cercare di curare i sintomi. So modern practices of, say, you know, therapy. Sono delle pratiche moderne, per esempio la terapia, la psicoterapia. Yeah, are very good at dealing with that level of disturbance within us. Sono molto abili, funzionali nel affrontare quel livello di disturbo, di disagio dentro di noi. Yes. There's a lot of wisdom in Western psychotherapy which really helps people. C'è molta saggezza nella psicoterapia occidentale che veramente aiuta le persone. But you, I'm sure you know about this mindfulness. We can call it a movement. Sono sicuro che conosciate tutti questa cosiddetta mindfulness, che possiamo considerare un movimento. Mindfulness and stress reduction, for instance. Per esempio, la mindfulness e la riduzione dello stress. Mindfulness and eating problems. La mindfulness e i disordini alimentari, disturbi alimentari. As we say in English, mindfulness with chips. In inglese diciamo la mindfulness con le patatine. So, un po' con tutto, insomma. So now it's become a sort of in vogue. E quindi è diventata una cosa un po' di moda adesso. But this also points, you see, to something which is happening within the psychotherapeutic movement. Però questo sta a indicare qualcosa che sta avvenendo nel movimento della psicoterapia, nell'ambito della psicoterapia. Yes, and this is not true, this is not a, I mean, I'm sure there are exceptions. Sono sicuro che ci sono delle eccezioni. But it became clear that certain forms of therapy were very good at getting the client in touch with their feelings. Ma è diventato molto chiaro che alcune terapie funzionavano molto bene in quanto mettevano il paziente o il cliente in contatto con le proprie emozioni. But there seemed to be a problem with now what do you do with them? Ma poi sembrava esserci un problema del tipo, beh, adesso però cosa ne facciamo? Cioè qual è il passo successivo? So we have to be careful not to make our psychological problems, the surface of our suffering, the main aim of our practice. Quindi dobbiamo stare attenti a non fare sì che i nostri problemi psicologici, che sono un po' alla superficie, diventino lo scopo della nostra pratica. So in other words, if in my meditation I feel depressed. In altre parole, se nella mia meditazione io mi sento depresso. I'm not trying to fix my depression. Io non sto cercando di aggiustare la mia depressione. I'm not trying to find out why I'm depressed. E né sto cercando di capire il perché sono depresso. Yeah. I'm not searching for some historical reason. Non sto cercando qualche ragione storica. I'm not even trying to do anything with it. In realtà non sto neanche cercando di farci qualche cosa. I'm just allowing the heart to manifest its turbulence. Io sto solo permettendo al cuore di manifestare la propria turbolenza. And it's the same with physical illness. E lo stesso vale per la malattia fisica. There are physical illnesses that are caused by the mind. Ci sono dei problemi fisici che sono causati dalla mente. But if we come to heal a physical illness, then again we're slightly off-piste. Però se stiamo curando solo un malessere fisico, di nuovo siamo un po' fuori rotta. But physical illnesses which are caused by the mind are usually healed. Ma i problemi fisici che sono causati dalla mente di solito poi vengono effettivamente guariti. There was a when the Mahasi Saido set up his center in Rangoon. Quando Mahasi Sayadaw ha iniziato, ha messo su il suo centro a Rangoon. They kept a diary of all the physical benefits. Hanno tenuto una specie di diario di bordo su tutti i benefici fisici. I think it's on the website. E lo potete trovare su internet. Yeah, I haven't been able to find it. And there was one particular case which is extraordinary. E c'è stato un caso che è stato un caso straordinario. But it does make the case. Però effettivamente è degno di nota. So a man came with severe with terminal cancer in the stomach. Quindi è arrivato al centro un meditante che aveva un tumore allo stadio terminale allo stomaco. And he refused to take medicine, but he wanted just to sit with the pain. rifiutava ogni tipo di farmaco, voleva semplicemente stare seduto con il dolore. And according to his description, there was an explosion in his stomach. E secondo la sua descrizione, a un certo punto c'è stata una sorta di esplosione nello stomaco. And the cancer disappeared. E il cancro è sparito. Yeah. Now this would suggest that the cancer had some sort of mental cause. E quindi questo fa intuire che fa supporre che questo cancro aveva probabilmente una causa mentale. Mm. So as you know, the body holds our stress. Come sapete, il corpo è come se contenesse il nostro stress. Yeah. We might think it's in the head, but actually it's in the body. Noi potremmo pensare che è nella testa, ma in realtà è nel corpo. Mm. So putting those aims to one side. Quindi se mettiamo da parte questi scopi, queste motivazioni. The Buddha is asking us really to go to the roots of the problem. Il Buddha ci chiede di arrivare alla radice dei problemi. Mm. And this is really to experience for ourselves these three characteristics. Questo è proprio il sperimentare per noi stessi le tre caratteristiche universali. Mm, so this is this teaching about impermanence. Allora c'è questo insegnamento della impermanenza. And the teaching about the role of desire. È l'insegnamento che riguarda il ruolo del desiderio. And this teaching around identity. Poi questo insegnamento riguardo all'identità. Trying to answer the question, well, who am I or what am I? Quindi questo cercare di rispondere alla domanda chi sono o cosa sono. Mm. So now all these vipassana techniques and also all insight techniques of other traditions. Quindi tutte queste tecniche di vipassana o tecniche di insight, di intuizioni profonde, di altre tradizioni. So Zen, Zazen o Dzogchen. Quindi lo Zen, Zazen o Dzogchen. They're all trying to help us establish a way of looking. Tutte cercano di aiutarci a sviluppare un modo di vedere. Mm. And the first thing is to stop the mind thinking and imagining. La prima cosa è di cercare di fermare la mente dal pensare e l'immaginare. Mm. So we mentioned this morning, the reason why this is so. E stamattina abbiamo già detto il motivo di questo. When in Zen literature you see no mind. Quando nella letteratura Zen vedete l'immagine in italiano non mente. People in the past have translated this as being blank or being in a state of unconsciousness. In passato le persone l'hanno tradotto come essere in uno stato di, come dire, di nullità o di incoscienza. Mm. But actually it means no thought. Ma in realtà ciò che significa essere senza pensiero. Mm. And no images. E senza immagini. Sì. So, when we did the standing meditation, and we opened up to what was inside us and what was outside us. Quando abbiamo fatto la meditazione in piedi e ci siamo aperti a ciò che è fuori di noi e dentro di noi. This is an exercise that has the power of teaching us that the world we're living in is actually being created by me. Questo è un esercizio che ci aiuta a vedere che il mondo che noi stiamo creando in realtà è creato da me stesso. Mm. So for instance, although my senses are dependent upon stimuli. Quindi anche se i miei sensi dipendono dagli stimoli. I mean, I need photons to see. Ho bisogno dei fotoni per poter vedere. And I need sounds in order to hear. Ho bisogno dei suoni per poter udire. Mm. What I do with them and how I interpret them is an internal process. Quello che ne faccio e come li interpreto, beh, questo è un processo interno. Mm. And how I deal with them is an internal process. E anche come io li affronto, come li gestisco, è un processo interno. Mm. So these various practices try to draw us away from thought into feeling, sensation. Quindi tutte queste pratiche cercano di tirarci fuori dal processo del pensiero per avvicinarci alle sensazioni, alle percezioni fisiche. Yeah, so some of you have done the practice taught by Goenkaji. Alcuni di voi hanno fatto la pratica come insegnata da Goenka. Yeah, so I also did this for some time. L'ho fatto anch'io per un po' di tempo. Yeah, and you can see that the practice is entirely in the body. E potete vedere che questa pratica è completamente dentro il corpo. You are moving around the body, so there's not even time to think. Vi state spostando con l'attenzione nel corpo, quindi non c'è neanche il tempo per pensare. Mm. In the Zen practice, which I also did, invece nella pratica Zen che ho fatto anch'essa, you worked very hard. Si lavorava duramente. Very fast. Molto velocemente. So that you had to keep your mindfulness on what you were doing. Quindi era necessario mantenere la consapevolezza su quello che si stava facendo. Mm, so that when you sat, there was the energy and the concentration. In modo che quando ci si sedeva c'era l'energia e la concentrazione. And the idea was to be completely open to whatever came into your consciousness, into that awareness. E l'idea era di essere in contatto con qualunque cosa entrasse nella coscienza o nella consapevolezza. Mm. So in the Mahasi tradition, these techniques are all really partly to try and close down the mind. Quindi nella tradizione Mahasi tutti questi esercizi, queste tecniche sono un modo per in qualche modo chiudere la mente, chiudere nel senso di raccogliere la mente, diciamo. Close down. Close down e quindi spegnere la mente. Yes. The Mahasi himself was a scholar. Quindi il Mahasi stesso era uno studioso. He held a very important position at the Sixth Council. Aveva una posizione molto importante nel Sesto Concilio. In Theravada Buddhism there have been six councils. E nel buddismo Theravada ci sono stati sei concili. And these councils are always about making sure that the scriptures are true to the Buddha's word. E questi concili hanno lo scopo di assicurarsi che le scritture siano sempre compatibili con le parole, in sintonia con le parole del Buddha. And they also include all the commentaries. E queste scritture comprendono anche tutti i commentari. So some of you will have come across a book called The Questions of King Milinda. Qualcuno di voi avrà ovviamente letto il libro sulle domande al re Milinda. Yes, there was an Arahant Nagasena. Quindi c'era un Arahant Nagasena. Who was in conversation with a Greek king. Che stava intrattenendo una conversazione con un re greco. Which would be Alexander's old empire, which is now Pakistan and Afghanistan. Che era il vecchio impero di Alessandro, che adesso è l'attuale Afghanistan o Pakistan. So, for instance, in this last, the sixth meeting, they accepted that book as part of the canon. Ecco, quindi in questo sesto concilio hanno accettato questo libro come parte del canone. So you can see in the Theravada world it was a very important meeting. Quindi vedete che nel mondo Theravada questa era un'importante riunione. And he held the central position of asking the questions. E lui Mahasi aveva questo ruolo centrale della persona che pone le domande. So he would have had this problem of the thinking mind and concepts. Quindi lui avrebbe avuto questo problema della mente pensante, dei concetti. So he's read all the Buddhist scriptures, so when he sits here, he's probably trying to visualize what he's thinking. Quindi lui ha letto tutte le scritture buddiste, quindi probabilmente quando è seduto lui cerca di visualizzare tutto ciò che ha imparato, che ha letto. So, say for instance, we've read what Nibbana is. Immaginiamo che di aver letto che cos'è il Nibbana. The Buddha has 32 in one scripture, 32 descriptions of Nirvana. In una scrittura il Buddha ha 32 descrizioni del Nirvana. The most happy, the most content, the refuge, the island. Lo stato più felice, più appagato, il rifugio, un'isola. So here we are sitting looking for refuge, huh? E quindi qua siamo seduti e stiamo cercando un rifugio. Yeah, some hotel in Tuscany. Un albergo in Toscana. So we have some idea. Now, if we achieve this idea, you see. Quindi abbiamo un'idea in testa. Quindi se riusciamo a concretizzarla, a raggiungerla, questa idea. Well, if we don't achieve it, then we're disappointed. Allora, se non la raggiungiamo, siamo delusi. Yeah, and if we do achieve it, we're completely deluded. Se invece la raggiungiamo siamo completamente illusi. Ah. So whatever this experience of Nirvana is, it is beyond the mind. Perché qualunque cosa sia questa esperienza del Nirvana è una cosa che è oltre la mente. Beyond thought, beyond imagination. Oltre il pensiero, oltre l'immaginazione. And it's also beyond feeling. È anche oltre la sensazione. So he learnt the technique from his teacher, the Mingun Sayadaw. Quindi il Mahasi Sayadaw ha imparato la tecnica dal suo insegnante. But he, I think, refined it. Ma lui l'ha un po' rifinita. Because this was the path that he himself took in order to attain path and fruit. Che questo è il sentiero che lui ha percorso per raggiungere il frutto e il sentiero. So for those of you who don't know, there are four stages of awakening in Buddhist understanding. Per quelli che non lo sanno, ci sono quattro stadi nel risveglio, no? Secondo il buddismo. So he would have experienced these through this particular practice. Quindi lui li ha sperimentati attraverso questa particolare pratica. So the idea of the word is to reduce that thinking mind to a very simple concept. Quindi questa idea di utilizzare l'etichetta, la parola, è di ridurre la mente pensante ad un semplice concetto. So even though we're saying rising, my attention is on the feelings in the abdomen. Quindi anche se noi diciamo alzarsi dell'addome, in realtà la mia attenzione è sulle sensazioni provocate dal movimento dell'addome che si alza. And the idea was to stop the mind from running away. L'idea era proprio di impedire che la mente scappasse via. So even if we have a worry, you see, we're worried about something in our daily life. Anche se abbiamo una preoccupazione, non siamo preoccupati di qualcosa nella nostra vita quotidiana. Yeah, so here it can be a nagging worry constantly coming at us. Quindi può essere una di queste preoccupazioni che ci tormentano, che continuano a tornare, che ci tirano. So when something like that happens, we have to say to ourselves, well, I can't do anything about that here. E quindi quando ci succede questo noi dobbiamo dire a noi stessi, beh, non c'è nulla che io posso fare a riguardo. So there's no point in trying to fix it. Quindi è inutile cercare di ripararlo, di aggiustare le cose. So what we want to do is to understand where is the worry, the anxiety coming from. E quello che vogliamo cercare di capire è da dove viene questa preoccupazione, questa ansia. Yeah. Is it coming from the outside or is it coming from the inside? Viene dall'esterno o dall'interno? So, by using a little word, such as, you know, worry. Usando una piccola parola, per esempio, preoccupazione. I can keep the thinking mind from wandering. Io posso impedire alla mente pensante di divagare. And I can sink my attention into the feelings of this anxiety. E posso sprofondare con la mia attenzione in queste sensazioni legate all'ansia. So even though I'm saying worry, I'm actually feeling something. E anche se io dico, mi ripeto, preoccupazione, in realtà sto sentendo qualcosa. And when I begin to go deeply into this, maybe the word changes. quando comincio ad andare in profondità dentro questo, magari la parola cambia. Maybe I feel heat or agitation. Magari sento del calore o dell'agitazione. So let's take a very simple example of the old pain in the knee. Prendiamo un esempio molto comune, che è quello del dolore al ginocchio. So I'm very happy observing my breath rising and falling. Sono qui felice che osservo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. And then very slowly something is drawing me here, this little bit of discomfort in the knee. E poi molto lentamente c'è qualcosa che mi attira lì, che è questo disagio nel ginocchio. So I avert my attention there. E quindi io sposto lì la mia attenzione. And I might say something like discomfort, discomfort. Potrei dire qualcosa tipo disagio, disagio. And as I'm observing this, it grows, it gets worse. E mentre lo sto guardando, cresce, peggiora. As it gets worse, I notice that I'm beginning to resist it. E man mano che peggiora, io noto che sto cominciando a resistere. So now my attention goes to resistance, resistance. I still feel the pain, but I'm also now noting more resistance, resistance. La mia attenzione allora va alla resistenza, cioè sento ancora il dolore, però comincio a vedere anche la resistenza. E dico resistenza, resistenza. And as this resistance, it may grow, it may fall away, but we wait until it passes. E quindi questa resistenza potrebbe crescere, ma noi aspettiamo che se ne vada. If of course the pain gets ridiculous, then we must give ourselves permission to move. Se però il dolore diventa insopportabile, allora possiamo darci il permesso di muoverci. And you have to move slowly. Ma dovete muovervi lentamente. And you want to see the effect of how the knee becomes more comfortable and the mind becomes less agitated. E quindi qui vogliamo osservare come il ginocchio diventa più comodo, in certo senso, e come la mente diventa meno agitata. In this way, again, we're observing this process of the body and the mind reacting one off the other. E qui di nuovo stiamo osservando questo gioco del corpo e della mente che reagiscono uno all'altro. But if the pain doesn't get too bad, we go into the pain. Ma se il dolore non è troppo forte, allora entriamo dentro il dolore. And my noting changes to heat or tightness. E il mio notare cambia e diventa calore, per esempio, o tensione. And here I can see this process of change much more clearly. E qui riesco a vedere questo processo del cambiamento molto più chiaramente. At one level it's one pain. Che a un primo livello è un dolore. But at another level, it's all these little sparkly sensations. Ma a un livello più basso, più profondo, sono tutte queste sensazioni così un po' pizzicanti, diciamo. And when I come out again, just a little bit away, the word pain comes back. E poi quando mi allontano anche solo un pochino, torna la parola dolore. Ah, so now I know pain is a mental construct, it doesn't actually exist. Ah, adesso lo so, allora il dolore è una costruzione mentale, non è che esiste veramente. What exists is these sensations. Quello che esiste sono queste sensazioni. Now we don't want to lose the concept of pain. Non è che vogliamo perdere il concetto del dolore. We need to know when the body is in pain because we have to go to the doctor. Dobbiamo riconoscere quando il corpo ha un dolore per andare dal medico. But it's an insight to know where is the body and where is the mind. At what point do they actually meet? Però l'insight si riferisce più a riconoscere cosa appartiene al corpo e cosa alla mente, come interagiscono, dove si incontrano. So you can see these noting words are actually reflecting back to us what it is we're experiencing. Quindi vedete che queste parole, queste etichette mentali, quello che fanno è che ci riflettono quello che effettivamente stiamo sperimentando. Now we mustn't go searching for the exact word. Non dobbiamo andare a cercare la parola esatta. We're not poets, eh? Non siamo dei poeti. Well, all we're trying to do is find a word which fits, generally speaking. Dobbiamo solo cercare una parola che in senso generale sia appropriata. Yes. If you are sitting and then you go searching for a dictionary, you've lost the plot. Se siete seduti e andate a cercare nel dizionario mentale la parola giusta, allora avete perso, come dire, lo scopo. So it's, if a word doesn't come, just a general word will do. Feeling. Sì, se non arriva la parola giusta, andrà bene anche una parola generale, sensazione. Now, this doesn't work unless it's very deliberate. Allora, questo non funziona se non è proprio un atto deliberato. Mm. It's a common experience that one wanders away on some dream, and when one comes back, you can hear the mind saying, rising, falling. È un'esperienza abbastanza comune che la mente divaghi e poi quando si ritorna all'addome, per esempio, si sente la mente che continua a dire alzarsi, abbassarsi. Ah, see? We've trained it like a dog. Perché l'abbiamo addestrata come fosse un cagnolino. Yeah. So the body and mind can be trained to do things. Quindi il corpo e la mente possono essere addestrati a fare delle cose. So when we walk across the street, we're not in charge of our legs. Quando attraversiamo la strada non siamo necessariamente in controllo delle nostre gambe. Yeah, we presume they will take us to the other side. Supponiamo che ci porteranno dall'altra parte della strada. So it's important that the noting is actually very deliberate, you see. Quindi è importante che questa nota mentale sia intenzionale. And remember, you can use it skillfully when the mind is very busy or very tired. You just note a little faster. E ricordate che potete usarlo in maniera funzionale, abile, quando per esempio la mente è molto impegnata o agitata, potete utilizzarla per fermarla in qualche modo. No. You can note a little quicker. Ah, potete notare più velocemente. A Vipassana retreat, it's usually the same every day. In un ritiro di Vipassana, di solito ogni giorno è uguale all'altro. Yeah. You never move out of the same place. Quindi non vi spostate mai dallo stesso posto, dallo stesso punto. So you get up, you wash your teeth, you have breakfast, you sit. Quindi vi svegliate, vi lavate i denti, fate colazione, vi sedete. So at first it's an effort to find the little words that we need. Quindi all'inizio è un po' uno sforzo trovare le parole che ci servono. But after 3-4 days they just come. They're just always there because you're always doing the same thing. Ma dopo 3-4 giorni è più facile perché sono sempre lì le parole, fate sempre le stesse cose. So make the effort to find a note for everything you're doing and eventually you'll see it works for you. E quindi fate lo sforzo per trovare la parola per ogni cosa che state facendo, poi vedrete che col tempo diventa un po' automatico. And it'll work for you. Funzionerà. So the noting is a simple word. Quindi questa nota mentale è una parola semplice. It's to be done deliberately. E quindi va utilizzata in modo deliberato, intenzionale. And it's to be done without a break. E va fatto senza nessuna pausa. Yeah, that's the difficult one. E questa è la cosa difficile. Now some people they experience the word to be so upfront that they can't feel anything. Per alcune persone la parola è così in primo piano che credo di non riuscire a provare nulla, a sperimentare nulla. It's as though the word fills the whole of consciousness. È come se questa parola riempisse tutta la coscienza. So although I'm saying rising, falling, I can feel something down here, but I'm very much aware of this word, rising, falling. Quindi se io dico per esempio alzarsi e abbassarsi, io sento quello che sta avvenendo nell'addome, però sono molto consapevole della parola stessa, più che altro. So what this is telling the meditator is that this intuitive awareness is confused with thought. E quindi quello che dice questo fatto al meditante è che questa consapevolezza intuitiva è in qualche modo confusa con il pensiero. And the whole process of noting is to draw this intuitive intelligence into the body. E quindi tutto lo scopo è proprio di tirare fuori, estrapolare questa consapevolezza intuitiva e farla entrare nel corpo. So have some image in the mind of going over the word or round the word or under the word. Quindi createvi una sorta di immagine nella mente che vi aiuti a scavalcare in qualche modo la parola, andandoci sopra oppure sotto, intorno. Until you can feel the word is, as it were, coming from behind and pushing you to the object. Finché non arriverete a sentire come se la parola fosse dietro di voi e vi spinge verso l'esperienza diretta, towards the object. Then it's working properly. Allora, in questo caso sta funzionando nel modo giusto. Are there any other questions? Any other questions about noting? Ci sono delle domande riguardo a questo aspetto della nota mentale? She don't understand this last part. You didn't understand the last bit. Do you experience the word as getting in the way of feeling sensations? Hai questa impressione che la parola si metta in mezzo tra l'osservazione e l'oggetto? Getting in the way? È come se si mettesse di mezzo, ecco, fosse un'interferenza, diciamo. Hai questa impressione che interferisca? No. E allora? So no problem. Allora, no problem. Yes. For some people, the word works immediately. You see. Per alcune persone la parola funziona subito. And they tend to be the people who are more heart-based. E queste tendono a essere le persone che hanno più una base nel cuore. It's people who are more intellectual, more up in the head, that find it difficult. Sono le persone più intellettuali che sono più di testa che lo trovano difficile. So now the next technique is going slow, you see. E l'altra tecnica è quella di rallentare, lentamente. So I think this is pretty obvious. E questo mi sembra che sia una cosa abbastanza ovvia. So the slower you go, the more you see. Più lentamente si va e più si riesce a vedere. I mean, you can drive through a forest or you can walk through a forest. Uno può guidare attraverso una foresta o può camminare attraverso una foresta. So if you walk, you just see more. Semplicemente se camminate vedete di più. So now what we are trying to see clearly is how we create this world. Quindi quello che noi stiamo cercando di vedere chiaramente è come noi creiamo il mondo. You'll see the slower you go, the more you can see how this whole psychology works. E quindi vedrete che più lentamente andate, più vedrete chiaramente come funziona tutta questa psicologia. Now you don't have to go absolutely slow all the time. Non dovete andare necessariamente assolutamente lentamente sempre. Especially when you're in a queue. Soprattutto quando siete in coda. Yes, when I used to teach it, when I teach at Gaia House. Quando insegno in a Gaia House in Inghilterra. This is a big meditation center. Che è un grande centro di meditazione. Often the meditators are mixed with other meditators who are staying there. O spesso i meditanti che partecipano a un ritiro sono mescolati insieme ad altri che invece sono lì più, in maniera più permanente. And I warn them that if they don't go at a normal speed getting the food, they might find a knife in their back. Io gli avverto che se non vanno ad una velocità normale quando sono in coda per il cibo, potrebbero sentire un coltello dietro la schiena. So So we have to be sensitive to our surroundings. Sì, dobbiamo essere un po' sensibili riguardo ai nostri all'ambiente che sta intorno. But there are, you know, times when we can really go slow. Però ci sono dei momenti in cui possiamo veramente andare lentamente. So there's the walking meditation. Quindi c'è la meditazione camminata. There's eating. C'è il mangiare. Yeah. When I, you know, used to work with my teacher, he would expect you to take an hour over lunch. Quando io lavoravo con il mio maestro, lui pretendeva che ci mettessimo più di un'ora per il pranzo. Whenever we're doing something by ourselves in our rooms. E quindi ogni volta che stiamo facendo qualcosa da soli nella nostra stanza. Now, when you go to sleep, you see, you can make a firm determination that upon awakening you'll be aware of if it's the in-breath or the out-breath. Per esempio, potete, quando andate a dormire, mettervi questo impegno, questo proposito, che quando vi sveglierete il mattino dopo capirete subito se c'è una inspirazione o una espirazione. Now, it doesn't matter if you see it or not. Non ha importanza se voi la vediate oppure no. But it helps to not just wake up as usual and bounce out of bed. Però vi aiuta a non svegliarvi come al solito e saltare fuori dal letto. Or worse, turn over and go back to sleep. O peggio ancora, rigirarvi e tornare a dormire. So, making this detail, we wake with a certain interest already, you see. Quindi se voi esprimete questa determinazione è come già, come dire, porre un interesse. Yeah. And then to wake up fully without moving. Sì. E poi il fatto di svegliarvi pienamente senza muovervi. And be right there with your first intention. E siate proprio pronti a cogliere la prima intenzione. Intending to rise. E quindi intenzione di alzarmi. Not intending to sleep. Non intenzione di addormentarmi di nuovo. So intenzione. And then you see, you begin your noting, so lifting your arms, so you feel the sheet, the bedclothes. E poi cominciate lentamente intenzione di muovere il braccio e sentite proprio il contatto con le lenzuola. Sì, drive the mind into the body. Quindi è come spingere la mente, dirigere la mente dentro il corpo. And then pulling. E poi alzare la lenzuola, sollevare. And then lifting the leg. Sì, e poi alzare la gamba e uscire dal letto. See, really take your time. Prendetevi veramente il vostro tempo. See? So we begin as we would wish to continue. E quindi noi cominciamo la giornata come vorremmo continuare. If, when the bell goes, you suddenly find yourself bouncing out of bed and standing there. Se vi ritrovate quando sentite la campana a saltare fuori dal letto e rimanere lì fermi. You say, and then go back into bed and start again. Allora gli dite no, ritornate nel letto e ricominciate. Yeah. So even when you are walking around here, suddenly you find yourself rushing. Anche quando state camminando qui intorno, improvvisamente vi ritrovate a correre. So stop. Fermatevi. And go back to where you started. E ricominciate dove avete iniziato. This is the way we recondition ourselves. Perché questo è il modo con cui noi ci ricondizioniamo. So if you remember at school we always did corrections. Ricordate a scuola facevamo sempre le correzioni. You have to go and do it again. Ritornare a farlo tante volte. So those of you who've not done this method before, I think you'll find going slow very powerful. Chi di voi non ha mai fatto questo metodo, seguito questo metodo, scoprirà che andare lentamente è molto molto potente. And you know, it creates a very deep calmness, you see. E crea una calma molto profonda. And this is something you can take in daily life. You see, you just stop and take your time. Ed è una cosa che potete portare nella vita quotidiana, semplicemente fermarvi e prendere il vostro tempo. And the last thing is intentions. E l'ultima cosa sono le intenzioni. So remember, in the Buddhist teaching, all conditioning begins with intention. Ricordate che secondo gli insegnamenti del Buddha, tutti i condizionamenti nascono da un'intenzione. An intention is a thought flavored with desire. L'intenzione è un pensiero condito, possiamo dire così, dal desiderio. So I might think ice cream, but there's no desire. Io posso pensare a un gelato, ma non c'è desiderio. But usually I think ice cream and there is desire. Ma di solito io penso gelato e c'è il desiderio. Ah, so if I'm going slow, I will see this desire arise. Se io vado lentamente, vedrò sorgere questo desiderio. So I note intention, you see. Quindi io noto intenzione. Intention to walk, intention to run, intention to escape. L'intenzione di camminare, intenzione di correre, intenzione di scappare. And I just wait till it passes away. E aspetto che passi. And this way I undermine this conditioning which keeps producing these intentions. E in questo modo io indebolisco questo condizionamento che continua a produrre le intenzioni. And of course when an intention is wholesome, then of course I empower it. Ovviamente se l'intenzione è salutare, allora io la potenzio. So now you have to make that distinction. Quindi sta a voi fare questa distinzione. In the walking meditation you're saying standing. Nella meditazione camminata vi dite stare in piedi. Then intending to walk. E poi intenzione di camminare. Keep saying it. Intending to walk. Continuate a dirvelo, intenzione di camminare. Now the intention to walk is very small. È molto molto piccola l'intenzione di camminare. But if you keep saying it, it'll gather some force. Ma se continuate a dirla, è come se guadagnasse un po' di forza, un po' di energia. But still nothing happens. Ma non succede niente. And then next minute the foot moves. E poi l'attimo dopo si muove il piede. So something has taken a potential into an actual. E quindi qualcosa ha trasformato un potenziale in un'azione. So this is what the Buddha means by the will, chetana. Ed è questo che il Buddha intende quando parla della volontà, di chetana. The important thing to understand is, while something remains only an intention, there is no action. La cosa importante da capire è che quando una cosa rimane solo a livello di un'intenzione, non c'è azione. No action, no karma. Quindi se non c'è azione, non c'è karma. Remember, karma is both wholesome and unwholesome. E ricordatevi che il karma può essere sia salutare che non salutare. So, to know that even though I have a desire, right, nothing is happening. Quindi questo è un riconoscere che anche se io ho un desiderio, non sta succedendo niente. It's only when I empower it and it begins to manifest as an action is something happening. È solo quando io lo potenzio e si trasforma in un'azione, allora è lì che qualcosa accade. So remember, it's not only actions of the body. E ricordate che non sono solo le azioni del corpo. Actions of speech. Sono le azioni della parola. And worst of all, actions of the mind. E ancor peggio le azioni della mente. Because it all begins here. Perché inizia tutto qui. Everything that human beings have produced began up here. Tutto quello che gli esseri umani hanno prodotto è iniziato qui su. Both the amazing technology and the misery. Sia l'incredibile tecnologia ma anche la profonda miseria. So in order to note intention you have to stop. Quindi per poter notare le intenzioni dovete fermarvi. So for instance now we're going to go to a walking place to do some walking meditation. Per esempio adesso noi andremo a fare la nostra meditazione camminata. So intending to do walking meditation. Quindi l'intenzione di fare la meditazione camminata. Now usually our minds are already there and the body arrives a little time afterwards. Di solito la mente è già lì e il corpo arriva un po' dopo. So we put our attention now on the feet, on the legs. Adesso mettiamo l'attenzione sui piedi e sulle gambe. And we stay with the footstep until we get to the walking place. E quindi noi stiamo con i nostri passi fino a quando arriviamo al luogo dove faremo la camminata. Then we stop. E poi ci fermiamo. See? Stopping, nothing arising in the mind. Quindi ci fermiamo, non sorge niente nella mente. See? Then next intention, intending to do walking meditation. E poi l'intenzione successiva, intenzione di fare la meditazione camminata. The more you stop during the day, the more you'll get the feeling of always being present, always being here. Più vi fermate durante la giornata, più avrete questa impressione di essere presenti, di essere nel qui e ora. Yeah. And again, you can take this directly into daily life. E anche qui potete portare questo direttamente nella vostra vita quotidiana. So, we've discussed this whole business of noting. Quindi abbiamo discusso questa questione del notare. Of going slow, dell'andare lentamente, and of noting our intentions, e del notare le nostre intenzioni. So this is the basic Mahasi method. Questo è alla base il metodo Mahasi. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your unremitting devotion to the practice. La vostra incrollabile devozione alla pratica. I am sure you will be liberated from all suffering sooner rather than later. Sono sicuro che sarete liberi da tutta la sofferenza prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. So we can do some walking meditation. Adesso possiamo fare una meditazione camminata. Are we on time or shall we modify? Okay, it should be 7:30. Because of the translation. Yes, we need half.